come il tuffo. Si piega, si bagna e non si spezza mai. Sono come quella pietra, si modella ma resiste. Anima di questa terra, maltrattata, ferita, non si arrende mai. Anime offese da pregiudizi strani e superficialità. Sono tutti responsabili, ci siamo tutti dentro. Siamo tutti ricattabili, ci siamo tutti dentro. Siamo tutti preparati a sparare sentenze. E siamo tutti educati, e la colpa è sempre degli altri. Io sono come il tuffo, poroso come nessun altro. Sono come quella pietra che si bagna ma resiste. Io sono come la pioggia che bagna e lava la città. Sono come il mio destino che mi porta sempre a scrivere e a suonare la mia verità, che prima o poi mi sazierà. Siamo tutti preparati, ci siamo tutti dentro. E sono come il mare, pescoso e generoso come non mai. Sono come il mare, rispettoso e cattivo quando vuole. Sono come quella terra, si bagna ma resiste. Sono come quella pietra che non si spezza mai. E a suonare la mia verità, che prima o poi mi sazierà. Siamo tutti preparati, ci siamo tutti dentro. Ma quando sono qua, io respiro storia, amo la cultura e la teatralità. E sento solo qua quella tradizione, con il suo candore che mi attrae sempre più. E quando ascolto il mare e l'odore del caffè, mi sento vivo. Mi sento vivo, vivo come te, io sono come te, io sono uguale a te, io penso come te. Sono come te, io penso come te.